sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. La domanda questa mattina la faccio in maniera molto brutale. Siete mai morti? O perlomeno avete mai parlato con i morti? Lo dico con questa brutalità, rischiando anche di toccare la sensibilità, la suscettibilità, l'esperienza momentanea di molte persone che mi ascoltano, perché quello di parlare con i morti o avere prove tangibili, concrete dell'esistenza di un probabile al di là sembra la forma più frequente di poter portare dei supporti credibili ad ogni atto di fede. Oggi siamo molto aperti al dialogo, al dibattito tra le due contrapposizioni fondamentali che si muovono nel pensiero dell'umanità, quella della fede nella scienza e quella della fede tout court, in qualcosa che trascenda ogni rappresentazione umana tangibile, verificabile e sperimentabile. Sul giornale questa mattina c'è un paginone Cultura e spettacoli con un interessante dibattito tra Giulio Giorello, che abbiamo avuto molte volte ospite di questa trasmissione, allievo di DJ Monat, filosofo della scienza, rappresentante del pensiero laico, e Dario Antisiri, un filosofo invece cattolico liberale. Quindi sul piano del dibattito, in questo albore di secolo che già stiamo vivendo intensamente, si svolge questo dibattito, poi ricade in tutti i piani del pensiero civile, della politica, della rappresentazione quotidiana della nostra contemporaneità. Ma noi ci stiamo portando dietro uno strascico molto lungo che in realtà appartiene a un'altra epoca, appartiene a parecchio tempo fa, alla fine di un altro secolo, alla fine dell'Ottocento, in cui un dibattito simile fra una crisi fondamentale di tutto ciò che aveva rappresentato, i valori spirituali, la compattezza del pensiero teocratico e d'altra parte la scienza che stava crescendo e creando nuove fedi. Proprio agli albori dell'aforisma di Nietzsche, la Gaia Scienza più o meno della fine dell'Ottocento, gli ultimi decenni dell'Ottocento, che affermava che Dio fosse in realtà morto, nasceva attraverso la confidenza che la scienza potesse dare delle aperture maggiori rispetto a quelle che dava semplicemente la fede, una sorta di nuova religione, che metteva gli uomini in contatto con il mondo dei morti. Era un simpatico sincretismo fatto di un insieme di tante cose prese un po' qua e un po' là. Chi dice vuole farlo nascere a New York con le sorelle Fox, tre signorine che cominciavano a parlare con i morti, le portavano in giro dalla loro piccola cittadina per tutti gli Stati Uniti a dimostrare questi fenomeni, addirittura parlavano con i morti e portavano degli apporti concreti, erano delle medium, attraverso loro passava la possibilità di mettere in contatto questi due mondi. Ma poi molti studiarono questi apporti e videro che in realtà erano peli e ossicini di cane, ma questo non significava che la coda lunga di questa possibilità di buttare un occhio nell'altra parte della realtà, quella che non conosciamo, quella che forse conosceremo dopo morti, ha contaminato anche la nostra contemporaneità, la nostra storia politica. Non è molto tempo fa che i giornali parlarono, era il 78, di un gruppo di notabili politici italiani, tra cui un ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, che davanti a un tavolino fece una seduta spiritica per capire dove fosse nascosto Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse. E se ne parlò seriamente, una seduta spiritica in cui uomini serissimi che avevano in mano la responsabilità politica di una gran parte degli apparati del paese, però era normale che davanti a un tavolino evocassero i morti per sapere come risolvere il dilemma irrisolvibile allora dalla politica. Beh, 800 24 00 24, quanto avete avuto questa tentazione di gettare un occhio al di là di quella che è la linea apparentemente invalicabile della nostra esperienza quotidiana? Quanto avete realmente parlato con i morti? Quante persone vi hanno raccontato di parlare con i morti? Quanto pensate che sia possibile gettare un occhio al di là del mondo che viviamo, conosciamo e tocchiamo? Quello che serve per comunicare con i morti. Una radio che riceva sulle onde corte, che come simbolo porta la sigla SW, un registratore munito di contatore, un quaderno e una penna. Accendere la radio, selezionare il tasto che vi permette di sentire le onde corte, portare l'asta di sintonia sui numeri più bassi, di solito cominciano con il 5 e mezzo, abbassare un poco il volume, accendere il registratore, dire data e ora e parlare con i vostri cari, ponendo la vostra domanda oppure dando a loro la scelta di dirvi quello che è più importante per voi in quel momento. Finito di parlare, alzare un poco il volume della radio e spostarsi con l'asta verso la stazione più vicina. Questo movimento di spostare l'asta della sintonia deve essere molto lento, in quanto alcune parole possono formarsi anche in quelle stazioni che voi pensate siano vuote. Questa è una istruzione per l'uso di come si parla con i morti presa da un sito internet. Il grosso paradosso della contemporaneità è che le maniere più avanzate per comunicare, per capire, per comprendere le complessità del mondo in realtà non porterebbero l'uomo verso la pura razionalità e il puro liberarsi di quelli che vengono chiamati con un pregiudizio altrettanto radicato che quello laicista, i fantasmi oscuri, ciò che limita l'uomo e la sua libertà. In realtà la rete internet è un grande ricettacolo di amplificazione di tutte le credenze, di tutte le superstizioni, di tutte le metafisiche, di tutte le pseudo religioni, ma anche di tutti i concreti e ortodossi filoni religiosi. Lo è in particolare, lo è in questa sorta di possibilità di creare delle tecnologie capaci di superare quella che è la barriera propria dell'uomo. Ma sempre le macchine sono state macchine di emancipazione dell'uomo dalla sua condizione umana. Questo è il grande tentativo, il grande desiderio, la grande illusione che ha avuto l'uomo. Anche le fotografie, i primi esperimenti fotografici servivano, tra le altre cose, a determinare la presenza di ectoplasmi, di esseri immateriali che davano parvenza ad anime inquiete, grandi nuvole di materia ovattata che dimostrava che in realtà in quel momento fosse possibile aprire una porta tra due mondi, tra quello degli uomini e quello dei non uomini. Abbiamo già Anna Rosa al telefono. Anna Rosa, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Ecco, lei parla con i morti. Diciamo che l'ho fatto, sì. L'ho fatto perché ho un mio fratello che era morto una ventina di giorni prima e me lo sogno. E io quando lo vedo dico, ma è possibile? Lui mi parla, no? Dico io, ma come fa a essere lì che so che lui è morto? E lui mi dice queste parole: devi indagare, dice, perché io non dovevo morire. Beh, oddio, pochi si rassegnano a morire se è proprio questo il problema. Sì. Perché com'è morto suo fratello? Praticamente lui è morto di infarto, perché a parte che era anche malato di cuore. Però, ma che indagine c'è da fare? Se uno muore d'infarto, ahimè, è un crudele destino, ma questo è accaduto? No, perché dietro c'era proprio un fatto, diciamo, familiare che è venuto fuori dopo un anno. Io non sapevo dove indagare, veramente. Sì, ma questo suo colloquiare con suo fratello avviene nel sogno, lei non è che mette a punto delle tecniche particolari, cioè non è che fa un'operazione per mettersi in contatto con i morti. No, però io, dietro i miei sogni mi si avverano tante cose. Ah, ecco, lei ha questa sua presunzione di facoltà divinatoria, di prevedere le cose. Però l'ho constatato. Ecco, per lei la prova che esista un altro mondo, ciò che la fede promette, ciò per cui le persone operano bene, operano secondo giustizia, operano secondo alcuni criteri, è probabile da circostanze ed esperienze come quella che sta provando lei, cioè che i morti diano il loro segnale vivi che esiste qualcosa oltre la morte? Io so che sì. Ma questa è la sua convinzione. Grazie signora. Ci siamo interrotti facendo ascoltare alcune registrazioni prese dalla rete di macchine per parlare con i morti. In questo caso parliamo di psicofonia. La psicofonia è una delle tante scienze cresciute a metà tra cascami di credenze religiose e presunzione scientifica, ma non lo dico con un senso di disprezzo, lo dico semplicemente analizzando questo fenomeno, di poter riuscire a dare prova concreta, ammesso che si possa concretamente dimostrare ciò che in realtà non ha nulla di concreto, comunque dell'esistenza di qualcosa oltre la vita. Lo psicofono prende forza a destinazione d'uso primario di alcuni strumenti di uso comune, come appunto una radio, come un registratore, e mettendoli in contatto con particolari onde nelle quali rimarrebbero attaccata l'essenza di persone scomparse, ne dà prova concreta. Economie ci si capitalizza a scappare di venire a In realtà poi quello che si ascolta dai file che pubblicano in internet sono queste frasi sconnesse, poco comprensibili. A lato ci sono alcune trascrizioni di quello che direbbero, di alcune frasi che in realtà fuori dal contesto dicono veramente molto poco. Ma non interessa qui dimostrare quanto sia vero, quanto non sia vero, quanto sia probabile. Ci piace capire, riflettere sul fatto che la tecnologia può supportare quello che una volta era semplicemente affidato a un atto di fede, a un atto di osservanza comunque di un canone, di una dottrina. Ma non dovremmo nemmeno meravigliarci tanto di questo se pensiamo che oggi la civilizzazione che stiamo vivendo viene fortemente connotata e impressionata dal fattore mediatico. Parlare di potere mediatico significa parlare di potere, di macchine che comunque danno evidenza, sostanza, esistenza ad esseri umani. Fra medianico e mediatico poi la differenza non è molta, da quando abbiamo cominciato a prestare fede a un medium, cioè a qualcosa che mettesse in contatto due realtà, una realtà umana e una realtà apparentemente più che umana, che la parola dell'uomo, l'immagine dell'uomo, l'esistenza dell'uomo fortemente amplificato dal mezzo. Beh, abbiamo cominciato a fare un'operazione che è perfettamente conseguente con quella paradossale, a volte anche ridicola, velletare operazione dei primi medium quando cercano di dimostrare che attraverso le macchine loro avevano la chiave di lettura dell'universo. Ora voglio dirti il mio segreto. Va bene. Vedo la gente morta. Quando dormi, quando sei sveglio, morti come nelle bare, nelle tombe. Vanno in giro come persone normali. Non si vedono tra loro. Vedono solo quello che vogliono vedere. Non sanno di essere morti. Li vedi spesso? Continuamente. Sono dappertutto. Racconterai a nessuno il mio segreto, vero? No, te lo prometto. Resterai qui finché non mi addormento. Certo. Ancora più paradossale osservare quanto poi nella narrazione dell'epica contemporanea che passa attraverso i romanzi, ma soprattutto oltre che dalla letteratura, anzi molto più dalla letteratura, attraverso telefilm e film, il senso della medianità, il senso della possibilità che tranquillamente, normalmente i due mondi possano entrare in contatto è quasi dato per scontato. È assolutamente probabile, anche e soprattutto attraverso film molto molto impressionanti come questo Sesto Senso, era del 99, ricordate, Bruce Willis è uno psicologo infantile che ha in cura un giovane paziente che parla con i morti, e man mano che si procede nel corso del film, di cui farò lo spoiler ma ormai è un film vecchio, si capisce che lo stesso psicologo è già lui stesso morto e per questo parla con questo bambino. Quindi un fortunato filone di film di rappresentazione comunque del reale attraverso la suggestione del cinema dà per possibile questo passaggio. Cole, che c'è? C'è qualcosa lassù? Io non vedo niente. Resta immobile. A volte lo senti dentro di te. È come se cadessi molto in fretta. Ma invece resti fermo. Hai mai sentito un pizzicolino alla base del collo? Sì. E i peletti sul braccio, sai, quando si alzano? Sì. Sono loro. Quando si arrabbiano, fa freddo. Io non vedo niente. Sicuro che ci sono. Ti prego, fagli andare via. Me ne sto occupando. Oh. Potremmo fare citazioni all'infinito su questo filone, cominciare dalla serie Fortunata di Poltergeist. Ricordate la bambina che parla con i morti proprio attraverso un televisore. Il televisore è arma formidabile per mettere in contatto un universo di persone in realtà morte, quanto siano morte le persone che oggi rappresentano dentro la televisione il segno della immortalità, della mummificazione totale, quanto ormai siano lontane dal mondo, ma quanto possano rappresentare profeticamente ogni cosa che dicono, ogni cosa che rappresentano, mode, tendenze, pensieri alti, solo per il fatto che sia il medium a trasmetterli, come a metà dell'Ottocento veniva data un profondo significato rispetto a tutto ciò che c'era stato prima, alle voci che uscivano appunto dalle gole di queste anziane medium, di queste signore, di questi personaggi che dimostravano, fra la cialtroneria e fra il tentativo di mostrarsi come nuovi profeti di una nuova religione, che in realtà loro erano capaci, attraverso lo studio, l'approfondimento, la trance, ma anche attraverso alcuni supporti tecnologici, di mettersi in contatto con un mondo che altrimenti non si poteva più lambire o soltanto immaginare o soltanto sperare che esistesse attraverso la televisione. Vedo anche alcune reazioni che mi arrivano attraverso Facebook di persone anche irritate dal tono di questa trasmissione. Mi scrive Stefano: ecco un'altra cialtrona per telefono, parlando alla signora ha parlato poco fa, ma non considero mai cialtrone chi in perfetta buona fede crede in qualcosa. Secondo me tutti hanno diritto di essere ascoltati, ogni argomento merita di essere approfondito, di essere discusso. Dunque, è partita con le premesse sbagliate. Evidentemente Stefano ha le premesse giuste per parlare con i morti. Dice: quelle di questa signora non sono altro che autoconvinzioni, e che l'io cerebrale trasforma e modula in base alle esperienze di vita, e nel sonno si manifestano con i sogni indotti delle situazioni precedenti. Questa è un'altra contemporanea tendenza, quella di aver leggiucchiato i manuali di psicologia comprati all'edicola della stazione e poter dare sentenze. Abbiamo un altro ascoltatore, Roberto. Roberto, buongiorno. Roberto? Roberto, sento soltanto un soffio, evidentemente ancora o deve essere evocato o c'è un problema di ascolto. Beh, noi andiamo avanti con una altra possibilità di avere comunque prove, se possibile, dell'esistenza di un altro mondo o di una situazione di trasformazione, chiamatela come vogliamo. Io cerco con grande cautela di non urtare, toccare nessuna sensibilità, ma non ho nessuna idea preconcetta, semplicemente la curiosità di verificare alcune cose che sono nell'aria, che si respirano, che si intravedono e si intrasentono, delle quali forse poco si parla perché sembrano appartenere ormai a una sensibilità non più molto calcata dai mezzi di comunicazione di massa. Qualche anno fa era molto facile vedere medium, spiritiste, veggenti passeggiare per i salottini della televisione a parlare, evocare morti, ma evidentemente ogni epoca televisiva ha i suoi filoni e il filone delle medium è passato. Beh, dicevo, un altro tipo di esperienza di cui si parla molto, di cui potrei fare un'infinita citazione di film, è quella dell'esperienza di premorte. Molte persone, sono convinto, perlomeno riportano con esattezza e coincidenza di particolari, il fatto che in occasione di alcuni gravi incidenti, di alcune operazioni chirurgiche, dei momenti in cui la loro vita è stata in un atto di precarietà, loro hanno avuto un'esperienza che nella descrizione sembra combaciare con una astrazione, con un'uscita dal proprio corpo, con una visione dall'alto delle persone che stanno attorno al proprio corpo, e poi con ormai il famoso, che è entrato nell'immaginario comune in maniera quasi ridicola, è tunnel di luce aperto con il tentativo, il desiderio e la piacevolezza di attraversarlo. Ebbi un serio incidente stradale nel quale riportai molte ferite gravi. Mentre ero intrappolato tra le lamiere, non sentivo alcun dolore, nonostante le ferite. Mi ritrovai come in un tunnel. Non era stretto, ma largo. Camminavo al suo interno. Ma non mi sembra che i miei piedi si muovessero. Quando raggiunsi la fine del tunnel, vidi della gente. Li vedevo solo dalla vita in su, ma non era per niente spaventoso. Ognuno sorrideva ed era felice. Vidi volti che riconobbi. Due miei nonni e mio padre. Mio padre stava ben diritto e appariva in ottima salute. Tutta questa gente era così felice di vedermi. La cosa successiva che ricordo è che si presentavano davanti a me le due possibilità: di restare o di tornare indietro, o di tornare indietro, o di tornare indietro. Questa è una testimonianza di premorte di un signore che ha avuto un incidente stradale, che descrive sempre attraverso la rete, devo dire, il grande ricettacolo di tutte le paure, di tutte le ansie, di tutte le illusioni dell'umanità, di tutte le epoche, qui trovano un'immediata possibilità di reperibilità. Attraverso la rete è facile aggregare, è facile mettere a confronto, è facile rievocare pensieri che molte volte viaggiano sparsi. Mi sembra di essere stato aiutato da qualcuno nella decisione di tornare indietro. La mia mano teneva ancora quella della persona che avevo incontrato e a cui avevo stretto la mano. Era una mano molto calda e rassicurante. La mia mano scivolò via pian piano, gentilmente e dolcemente, mentre io fluttuavo di nuovo verso il mondo dei vivi. L'altra mano non mi tratteneva più, ma mi dette un'ultima stretta, molto gentile, quando io la lasciai andare. Poi tutto finì. Ero tornato indietro. Marco, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. E lascio perdere i complimenti. Sì, so lasci che... perdere meglio. Allora, parli dell'esperienza di sua madre. L'esperienza di mamma è classico incidente stradale, la quale lei è stata, ora non c'è più comunque lei, è stata in coma e poi risvegliandosi durante, diciamo, la sua convalescenza, mi raccontava questa esperienza e mi disse: sai Marco, ho avuto il momento che sono stata investita, non dolore fisico, ma una percezione di scendere come in uno scivolo chiuso, un tunnel, in fondo c'era una luce e io scendevo e questa luce si avvicinava. In fondo io mi sono ritrovata come in una terrazza, di fronte il classico, sa quei giardini settecenteschi fatti al labirinto? Sì, come noi ci immaginiamo il paradiso ogni tanto. Ma non lo so, sa, poi un immaginario ognuno ce l'ha soggettivo. Però tutte persone vestite di bianco, riconobbe tra queste persone dei suoi genitori, suppongo, e si fece per avvicinarsi e come una forza la trattenne e poi si sentì prendere per i capelli e ributtare indietro, una sensazione di rifare la solita strada all'indietro e risvegliarsi in rianimazione all'ospedale di Firenze. E la raccontava tranquillamente questa a voi figli? La raccontava tranquillamente, poi ci siamo documentati perché mia madre era un po' affascinata da queste cose e abbiamo letto insieme La vita oltre la vita, non mi ricordo l'autrice, e effettivamente sì, per filo e per segno rispecchiava la sua esperienza, come del resto la ricorda la fine del film Il Gladiatore. Sì, anche, però anche Bonolis e Laurenti quando fanno la reclame del caffè sono vestiti di bianco, sì, vabbè, no, quella è infatti un pochino più, sì, questa è un pochino più leggermente, un pochino più serio. Non credo alle persone che parlano. No, io credo a tutti e non credo a nessuno, nel senso sto solo a ascoltare, non mi interessa. Mi piace capire che in realtà esista una coincidenza di immaginario, la fiction, me, il film. Se queste esperienze sono vere, sì, effettivamente viene a pensare che in fondo o in determinate situazioni, sì, qualcosa di analogo ognuno di noi soggettivamente può farla questa esperienza, tant'è vero che la mia mamma la chiamava l'ultima giostra, nel senso perché sembrava come un grande scivolo al buio, insomma, volevo lasciare questa mia testimonianza e la seguo sempre con interesse. Grazie Marco. Adesso vi leggo il messaggio di una persona noiosa, si chiama Paolo, me lo scrive su Facebook, ma se vuole telefonare 800 24 00 24, lo faccio parlare volentieri. Dice: stiamo a sentire se la trasmissione ha qualche correttezza, se si dà voce effettivamente a tutto quello che merita, alla campana di chi smantella queste falsità, o se si cerca di alimentare i soliti misterucci interessati per fare audience. Ma figuriamoci, ma chi se ne importa? Infatti gli risponde giustamente Igino, che ascolta da più tempo la trasmissione, dice: forse hai confuso Melog con Super Quark. Quello che voglio dire, ma vi posso io dimostrare che sia vero che i morti parlano attraverso la radio onde corte, o vi posso dimostrare il contrario, che quelle voci non appartengono ai morti? Ma chi lo sa? Ma chi se ne importa? Mi sembra possibile. Voi che state immobilizzati interi pomeriggi, io mi sono vissuta domenica in. Beh, io ieri ho fatto un atto di fede perverso di cui dovrò confessarmi semmai, perché ho dato fede ai morti che mi parlavano attraverso la televisione. Ho visto Massimo Ranieri che cantava e abbracciava callipigerrima Lorena Bianchetti dicendo sta guaiona mi porta fortuna, intanto si smarchettava il suo CD. Beh, quello non è un'operazione medianica. Non ho dato io fede a morti che parlavano attraverso la televisione, ma può venire Piero Angela e tutto il CICAP in congregazione per dirmi che in realtà non è vero, che mi sono illuso. Io vedevo veramente Massimo Ranieri. L'altra sera ho visto la Carrà che faceva la lotteria di Capodanno, e quella non è una macchina che evoca i morti, perché volete sempre dare un senso di pacata razionalità a quello che si dice, perché ci deve essere sempre questa terrificante possibilità di dare giusta ed equa rappresentanza a tutti i punti di vista. Ma noi ci accontentiamo semplicemente di rappresentare visioni, poi ognuno ha strumenti personali, individuali, per valutarle per quello che sono. Abbiamo al telefono Giulio. Giulio, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, lei è stato in coma, al risveglio ha avuto strane sensazioni. Più che strane sensazioni, dunque, nel 2002 a seguito di incidente stradale mi ritrovai, o meglio, mi hanno detto che sono stato in coma, perché naturalmente di quel periodo non ricordo assolutamente nulla. E solo quello che unicamente ricordo, come guardi, con una nitidezza assurda, come se l'avessi realmente vissuto, o meglio, può darsi pure che l'abbia realmente vissuto, e il risveglio. E niente, io mi svegliai con immaginavo di essere in mare agitatissimo, e c'era una vecchia caravella, diciamo, spagnola, dove c'era un pontile con mio nonno sopra, vestito da, diciamo, da marinaio, con diciamo, i pantaloni rivoltati al ginocchio, il busto senza vestiti. Secondo lei perché proprio marinaio l'ha visto suo nonno? Ma guardi, non ne ho proprio assolutamente idea. So che, insomma, mio nonno dai suoi racconti pregressi, mio nonno faceva Napoli-Capri a nuoto, quindi raccontava molto le sue esperienze marinaie. Diciamo, gli piaceva molto nuotare, gli piaceva il mare. Può darsi che io mentalmente abbia collegato a qui, non so cosa. Beh, lei che senso dà questa esperienza? Io, per rispondere all'ascoltatore che mi scriveva su Facebook, non voglio dire che questa sia una prova dell'esistenza di un mondo in cui suo nonno veleggia tranquillo sulla sua caravella, né che lei sia un allucinato, un pazzo, un credulone. Semplicemente mi piace capire lei che valore ha dato nella sua vita questa esperienza. Guardi, non dico che la mia vita, assolutamente non dico che si sia stravolta, però sento, non dico delle presenze, però credo che qualche cosa ci sia. È come se, non so come dirle, magari mi sento più protetto alle spalle, come se ci fosse qualcuno che in determinate situazioni, in determinati momenti ti venga a dare una mano, ti venga ad aiutare. È una sensazione strana da spiegare, però. Ma non è che sia strana, senza prima ancora che si parlasse di fenomeni medianici, il culto delle morte è sempre esistito in tutte le civiltà. In civiltà molto più elementari della nostra ci sono due possibilità di essere qualcosa: o sei uomo o sei antenato, non sei altro. Non è che ci sono tutte queste variegate possibilità di muoversi attraverso varie mutazioni. Quindi esiste da sempre una sorta di continuum, comunque, anche se ideale, anche se soltanto come desiderio, come ispirazione, come conformazione del proprio atteggiamento, che ci fa sentire comunque forte la presenza di coloro che ci hanno preceduto e con noi hanno un legame molto stretto. Vorrei, se possibile, come ho già detto e come ho già anticipato, entrare più nello specifico di questo argomento. Ho al telefono Massimo Biondi. Massimo Biondi, buongiorno. Buongiorno. È un giornalista scientifico di formazione medica, quindi possiamo cominciare ad addentrarci con una casistica perlomeno più studiata, più analizzata, più sperimentata. Rispetto a questi fenomeni ci sono persone serie, come dice il nostro ascoltatore, cioè scienziati, medici, studiosi, che se ne occupano non soltanto come un fenomeno di pura stranezza, ma anche come qualcosa che forse merita la pena di osservare. Certo, vorrei dire una cosa anche al nostro ascoltatore. Nel modo di avvicinarci a questi fenomeni si può rimanere in qualche modo legati al racconto, alla visione che queste persone ci trasmettono. Come si può cercare di analizzare questa esperienza all'interno della vita o del momento di crisi dell'individuo? Ecco, gli scienziati, diciamo i medici, i fisiologi, studiano questo secondo aspetto, cercano di guardare questa esperienza non in sé, non astraendola dal resto, ma vedendo quello che accade all'individuo che sta attraversando una crisi. Altri fanno semplicemente l'analisi, lo studio delle interpretazioni sulla visione in sé. E questi due aspetti non sono alternativi, possono coincidere alcune volte o complementarsi. Quindi mi sembra importante che ci siano entrambi, che non si faccia un'esclusione da parte dell'uno o dell'altro, come diceva il suo corrispondente su Facebook. Gli scienziati e i medici che studiano questi aspetti, ce ne sono molti, e sono stati pubblicati sulla letteratura scientifica ormai numerosi studi. Alcuni sono... Hanno un nome anche, diciamo, scientifico e conosciuto, queste esperienze di premorte? Sì, vengono, a livello internazionale vengono chiamate NDE, Near Death Experiences, cioè esperienze in prossimità della morte. In italiano vengono anche definite come quasi morte, premorte, diciamo formule linguistiche del genere. Ecco, ma il mondo scientifico come le tratta? Come delle uscite, diciamo, dalla possibilità di controllare la propria emozione, di controllare la propria sensibilità, o un momento di crisi che determina delle aperture che non conosciamo? Dunque, diciamo una cosa preliminare che mi sembra molto importante. Diamo una dimensione di questo fenomeno, cioè di tutte le persone, per esempio controllate in ospedale, che subiscono un arresto cardiaco e quindi si trovano in una crisi profonda, molto pronunciata, e con non entrate nella morte, perché per definizione l'evento morte è irreversibile, non si può superare e tornare indietro a raccontarlo, ma che si trovano vicino a questa situazione di arresto delle funzioni vitali. Ebbene, di tutte le persone che superano questa crisi, soltanto il 10-12% ha queste visioni, ha questi ricordi o pseudoricordi, ci racconta queste cose. Il 90% supera la crisi, torna, diciamo, in salute, torna a vivere normalmente e non ha questi ricordi. C'è anche da dire che oggi c'è una diffusione talmente capillare di ogni informazione che, come prima citavo all'ascoltatore, dalle pubblicità ai film, a una serie di letteratura anche molto diffusa, tutti sappiamo che l'esperienza di premorte corrisponde a quel tipo di visione, e quindi siamo un po' condizionati da questa questione del tunnel, di vedere le cose dall'alto, delle persone vestite di bianco e via dicendo. Ma siamo condizionati anche da una certa elaborazione mediatica di queste esperienze, di questi racconti, perché molti di questi racconti, badi bene, non hanno la forma così articolata come è stato trasmesso poco fa da questi testimoni che ce le hanno raccontate. Molte di queste esperienze consistono semplicemente nel sentirsi galleggiare nel vuoto o in una luce indistinta dove non si vede niente. Altre di queste persone raccontano di essersi proprio sentiti staccare dal corpo, rimanere ad aleggiare lì sopra il corpo mentre il corpo subiva, non so, i tentativi di rianimazione, per esempio. Dopodiché sono tornati indietro. Cioè non tutte queste esperienze, anzi soltanto una piccola parte, si compone di tutte queste fasi, cioè il viaggio nel tunnel, la luce, l'incontro con gli esseri dall'altra parte, il ritorno indietro, eccetera. Attenzione, questa è una ricostruzione che è stata fatta e che viene oggi presa a modello, ma in realtà moltissimi di questi racconti hanno soltanto un aspetto frammentario. Ecco, qualcuno di questi racconti o qualcuno di queste esperienze sono state raccolte da Fulvia Cariglia, che è una sociologa, autrice di Territorio oltre la vita, Mondadori. Fulvia Cariglia, buongiorno. Io mi scuso per aver fatta aspettare molto al telefono, ma la terza parte sarà tutta a sua disposizione. Ma io ho ascoltato con grande piacere lei e i nostri ascoltatori. Allora, mandiamo quindi immediatamente le informazioni del traffico e si prepara a raccontarci nella terza parte di questa trasmissione quello che è il suo punto di vista sui fenomeni che stiamo attraversando, che vedo che suscitano grande indignazione da parte del pubblico, ma tutto ciò che suscita indignazione evidentemente giaceva sopito in una parte della nostra coscienza che molte volte preferiamo tenere nascosta. Melog 2.0. Abbiamo provato a farvi capire. Oh, capire che cosa? Della casa, della nuova situazione. Quale situazione? Dobbiamo imparare a vivere tutti insieme, i vivi e i morti. Oh, se siete morti, lasciateci in pace. Lasciateci in pace! Lasciateci in pace! E se anche vi lasciassimo in pace, loro farebbero altrettanto. Loro? Gli intrusi. Non ci sono intrusi. Hanno portato via le tende, oh sì. Vi assicuro che sono stati loro. E ora sono in questa casa con voi. E i vostri bambini. Vi stanno aspettando. No! Sì, e credetemi. Prima o poi. Gli intrusi, gli others, in realtà sono i vivi. E a parlare sono persone morte, che non sanno di essere morte, ma quanti oggi ci circondano tra morti viventi, morti inconsapevoli, morituri o morti mummificati. In questo film Nicole Kidman, con i suoi bambini chiusi in una casa spettrale, si accorge soltanto alla fine del film di essere lei morta, aver ucciso i figli, e di essere nient'altro che una presenza spiritica evocata da una vecchia medium, e c'è questo stravolgimento simbolico fortissimo fra bruttissimi vivi che sembrano morti, in realtà morti bellissimi, molto più intelligenti, molto più vivaci, molto più vitali dei vivi stessi. Continuo a registrare su Facebook, luogo in cui sono abituato a mettere qualsiasi provocazione e a riceverne di ogni tipo, una sorta di senso di necessità di giustificazione di quello di cui parliamo questa mattina. Sono tutti pronti a prendere tranquillamente, a ridere trasmissioni intere dedicate ai maghi televisivi, a persone che si fanno pagare per leggere il futuro in televisione, a un'infinità di canali dedicati ai numeri del lotto, grasse trippone che danno i numeri del lotto e si fanno pagare, e questo fa parte di una organizzazione, di un'azienda che questo fa, che questo pubblica, che questo trasmette, su cui nessuno ha più niente da dire. Oggi il culto dell'irrazionale, il business dell'irrazionale è talmente radicato ormai nel nostro quotidiano che non riusciamo più a riconoscere quando questo si manifesti. Lo riconosciamo e alziamo giustamente il pregiudizio del nostro raziocinio quando andiamo a toccare alcuni luoghi classici, alcuni nomi ormai entrati nella letteratura, come spiritismo, come esperienze di premorte, tutto ciò che ormai appartiene alla catalogazione di ciò che va considerato come qualcosa di alieno dalla razionalità. Ma in realtà l'irrazionale serpeggia molto di più nella nostra realtà. 800240024, quanto di quello di cui stiamo parlando vi colpisce personalmente? Ci siamo interrotti con la dottoressa Fulvia Cariglia, sociologa, autrice di Territorio oltre la vita, Mondadori. Stiamo parlando di questo tipo di esperienze, sono chiamate esperienze di premorte, e lei mi sembra che ne abbia raccolta una ricca casistica. Sì, una puntualizzazione. Non assimilerei l'esperienza di premorte a qualcosa che ha a che vedere con lo spiritismo. Assolutamente no, assolutamente no. Però entrambi sono possibilità studiate, conosciute, trasmesse di lambire il mondo della morte come prova assoluta dell'esistenza di una metafisica, di qualcosa che trascenda il mondo fisico che stiamo vivendo. Sia gli spiritisti, sia quelli che credono, immaginano, suppongono, o magari realmente, che ne so, parlano con i loro morti, sono convinti che ciò a loro faccia bene, perché da loro questo senso di comunione con l'assoluto, che non è riuscita a dargli la religione, non riesce a dargli la pratica, non riesce a rasserenargli nessun tipo di ritualità, se non parlare ai propri morti, e quelli che dopo questa esperienza stravolgente, dalle loro testimonianze, di aver lambito il mondo dei morti, di essersi fermati al tunnel della luce, non essere andati oltre, aver intravisto qualche caro vestito di bianco, beh, sembra che abbiano una visione più serena della vita. In questo senso li ho assimilati, so che fanno parte di filoni ben diversi. Sì, hanno una visione migliore della vita, o comunque cambiano dopo questa esperienza. Ciò che ci fa pensare è che è la vicinanza con la morte che cambia l'individuo e non tanto quello che ha visto. Il fatto è che queste esperienze, l'esperienza di premorte, sono delle realtà, per quanto soggettive, riconosciamolo, sono delle esperienze assolutamente soggettive, comunque sono delle esperienze che esistono, quindi vale la pena di studiarle, soprattutto considerato che sono ormai milioni e milioni i casi registrati e che non basta giustificare la divulgazione. Ecco, il dottor Biondi mi dice un 10% rispetto, sì, a tutte 10-12%, le persone. Però noi dobbiamo consigliare 10-12% che si concretizzano in, secondo una sommaria indagine, in almeno 15 milioni di casi censiti in Europa e altrettanti negli Stati Uniti, e chissà quanti sono avvenuti e non abbiamo avuto la possibilità di registrare. Quel 10-12% è comunque concretizza comunque una casistica immensa, se noi pensiamo che negli ultimi 30 anni per esempio le tecniche di rianimazione sono sempre più sofisticate e quindi c'è sempre più la possibilità, come si diceva una volta, di riacciuffare le persone per i capelli. Ecco, no? Per lei questa qua è un'esperienza puramente soggettiva o realmente lambiscono uno stato della coscienza, chiamiamolo così, che normalmente non si conosce, non si tocca? Allora, sono esperienze soggettive, nel senso che chi le vive ce le racconta. Ovviamente nessuno di noi possiamo entrare nel merito e in quella vicenda, in quella storia. Però ci sono anche moltissimi casi, non la stragrande maggioranza naturalmente, ma moltissimi casi nei quali l'esperienza soggettiva dà delle informazioni e dei dati che attraverso normali canali di informazioni non sarebbe stato possibile conoscere. Vede il caso, una delle più belle NDE, una delle più belle esperienze di vita morta che noi abbiamo registrato, ad esempio, è quella di Gianfranco Funari, che è una di quelle esperienze durante le quali il soggetto ha avuto delle informazioni in stato di premorte, insisto, di premorte, quindi non era morte, non confondiamoci, e comunque in quello stato particolare, a cuore fermo, a elettroencefalogramma piatto, Funari ha avuto delle informazioni che non sapeva e che poi abbiamo avuto modo di verificare. Ecco, con questo voglio dire, l'esperienza è sì soggettiva, non sappiamo che cos'è, non conosciamo la dinamica attraverso la quale si manifesta, quindi è saggio sospendere il giudizio, però altrettanto saggio tenere in considerazione le vicende di queste persone, che sono appunto ormai a milioni, le quali persone poi hanno una vita diversa, quindi hanno una sorta di problema di adattamento, devono fare i conti al ritorno con tutta una serie di valori che a questo punto non vale più per loro. Per questo è molto importante occuparci, oltre che delle loro storie, anche di loro. Dottor Massimo Biondi, lei cosa ha da aggiungere rispetto all'esperienza che ci ha riportato appunto la dottoressa Cariglia su questa soggettività delle esperienze, comunque dà informazioni su realtà che in realtà non dovrebbero conoscere, oggettivamente poi verificate? Sì, quello che posso dire è che molto spesso noi analizziamo questi racconti, queste storie, quando ci vengono dette, quando ci vengono raccontate, e il momento in cui ci vengono raccontate spesso è molto lontano dal momento in cui c'è stata la crisi e quindi presumibilmente questa stessa esperienza vissuta interiormente. Allora, nel tempo che è intercorso tra il momento della crisi superata, quindi la guarigione, la rianimazione eccetera, e il momento del racconto, l'individuo non è rimasto astratto su una nuvola, ma ha interagito, ha parlato, ha sentito parlare anche altre persone. Diciamo, ha corroborato con l'esperienza, con altri dati. Potrebbe aver incorporato, anche senza essersene reso conto, delle informazioni che poi ci ritrasmette all'interno di questo racconto, di questa visione. Per cui, tra l'altro, facendo delle analisi, interrogando queste persone a distanza di tempo, si notano che i racconti si arricchiscono di dettagli che prima non erano stati detti. Ora, ovviamente, siamo onesti, non sappiamo se quei dettagli non erano stati detti perché non c'erano, oppure semplicemente non se li ricordavano in quel momento. Sentiamo Anna. Anna, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Certo. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Io volevo riportare la mia esperienza sia per quanto riguarda l'esperienza di premorte riferita dal mio medico curante, sia per quanto riguarda il parlare con i morti e di questa esperienza io diretta in seguito al lutto che sto vivendo. Ho perso mio marito 2 anni fa in un incidente stradale. Comunque, per quanto riguarda l'esperienza di premorte, io mi ricorderò sempre. È successo 30 anni fa, avevo una banale influenza, mi ero costretta a letto dalla febbre. venne a visitarmi il mio medico curante. Era il vecchio medico di famiglia che curava tutto, naturalmente, parlo di più di 30 anni fa. E vide sul mio comodino il libro di Moody, La vita oltre la morte. E mi disse, sai, è capitata una esperienza molto simile anche a me, pari, molto simile a quella che viene descritta in quei libri. Il mio medico curante allora soffriva di scompensi cardiaci, per cui aveva crisi ripetute di edemi polmonari. Ed essendo medico teneva sempre pronto tutti i farmaci nel suo ambulatorio per autotrattarsi. Quindi è tornato immediatamente poi... E lui un giorno fu ricoverato per un edema polmonare acuto, fu ricoverato in ospedale e a un certo punto mi disse, sentì proprio di nuovo che ritornava l'edema, la marea montante e ho solo in mente il tempo di suonare il campanello nel letto per allertare i medici e poi ho perduto coscienza. Quando ho perduto coscienza mi sono anch'io ritrovata in questo tunnel che portava alla fine una luce e ho visto una donna che mi veniva incontro e non l'ho riconosciuta perché non riuscivo a vederla in volto, però portava un fazzoletto in testa e mi ha detto: che cosa fai qui? Ritorna immediatamente indietro, non è ancora arrivato il tuo momento. E in quel momento lui ha avuto anche questa esperienza di separazione dal corpo, per cui ha visto benissimo tutti i medici che erano arrivati, gli infermieri che tentavano una rianimazione cardiopolmonare, però lui mi ha detto che non voleva rientrare in questo corpo perché viveva così in questo stato di assoluta serenità, di abitudine. E quindi si trovava bene in quel mondo sospeso e parallelo, come hanno detto trovarsi bene tutte le persone che hanno raccontato questa esperienza, che abbiamo cercato di riferire questa mattina, ma con lo stesso spirito in cui si ascolta e si riferisce un racconto, una favola, un romanzo, una biografia, un momento di epica, non è poi tanto importante capire cosa ci sia di vero o di non vero dietro. L'importante è sentire che nell'aria c'è anche questa cosa. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni, senza cui non avrei lambito questa mattina il mondo dei morti. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.